Io trovo respiro, sono quando io riesco ad andare nel prato, ci abbiamo insieme a mia figlia un piccolo orto e coltiviamo qualcosa che non viene regolarmente mai, però è fonte di grande, grandissima gioia. La zanzara. Nuova, ti ho comprato però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore che ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Ma il muletto è mio e perciò puntura. Partiamo subito, caro David. Questa sera ho già sentito la tua voce squillante. Sono carico, molto carico questa sera. Finisce la settimana e siamo carichissimi per quest'ultima puntata della settimana. Anche perché hanno arrestato i signori di Stormfront. Ah, è vero, i tuoi nemici nazisti. Che è successo lì? Dopo la querelina che avevo fatto io e anche altri, chiusi, arrestati. L'ideologo, il signor Daniele Scarpino. Ciao, ciao Scarpino. Un po' di galera ti farà bene. Allora, per chi non avesse capito, sta parlando di un'organizzazione di estrema destra che si chiama Stormfront, che aveva parlato male anche di Parenzo, parlato male per modo di dire, chiamandolo l'ebreo, eccetera, eccetera. Ho usato un eufemismo. Ecco, appunto. In carcere è andato l'ideologo, un tale che si chiama Daniele Scarpino e tre attivisti. Molto bene. Il sito era per la superiorità della razza bianca, però c'è un altro signore amico nostro che lo dice, comunque lasciamo perdere. Amico nostro, insomma. Amico nostro. Punturine della serata. Dove partiamo? Da chi partiamo? Al tuo amico Mughini? Da Mughini, poi da Formigoni, c'è tanta gente da punturare oggi. No, Mughini? Che gli vuoi dire al tuo amico Mughini? Mughini? Ma Mughini ieri ha scritto, oggi non l'ho neanche visto, sì. Ma ha scritto un pezzo ieri sulle tasse che paga, dove ci racconta le sue tasse, e allora? I problemi che ha per pagare. Mughini, degli affari tuoi, non è che ci interessa molto, non è che puoi scrivere sui quotidiani relativo agli affari tuoi. Amico mio, mugolo! Alle primarie non vado, condivido con quelli là solamente il fatto di essere un essere umano. Ma cosa? Che vuoi fare? Io non vado a votare, no, l'obbligo del medico, non vado a votare gente di cui condivido appena appena il fatto che sono esseri umani. E dai, su, Mughini, esageri, caro Giampiero, io capisco il tuo disgusto per la politica. E però, dai, su, avrai qualcosa in comune, una cosa in comune, se non il fatto di essere un essere umano, con Matteo Renzi o col signor Bersani o col signor Vendola o col signor Tabacci, con la signora Puppato. Forse con la Puppato ha qualcosa in comune, sì. Forse il cane BB. Esatto. Sempre Mughini contro Battiato, senti. E forse l'uomo più inadatto al mondo per fare un mestiere concreto, pragmatico, compromissorio, un po' sporco, che è la politica. La politica non è un'attività per francescani scalzi, per poeti simbolisti, per verginelle, eccetera, eccetera. È un mestiere duro nel quale devi mettere assieme pezzi del reale che si contraddicono fra loro. Beh, qui ha ragione però, qui ha perfettamente ragione. Battiato, ripensaci, perché tanto fra poco è tutto finito, te ne andrai subito, te ne andrai immediatamente da lì, ti farà schifo tutto. Però la punturina maggiore è per il Berlusca, Per il Berlusca. Ah beh, Berlusca. Certo. Ormai tornato a pieno regime, No, ma sì, ma non camicia nera aperta, giacca grigia, scatenato al Milan, Cerone in faccia a 3000. E senti questa cosa qui, senti questa cosa, usa anche lui parolacce. Ormai siamo sdoganati, io e te, Davide, siamo sdoganati ormai. No, ma infatti ci hanno sdoganato tutti, persino Berlusconi, senti. Il Milan ha sentito la sua mancanza? Non lo so, bisogna chiederlo a lui. Che cazzo di domande fate? Ritagliamo, che cazzo di domande fate? Lo ha detto pure il Berlusca. Senti un altro che dice, non avresti da prestarmi dei soldi? Aspetta. La situazione è quella, siamo in crisi e quindi bisogna fare i conti. Ma a gennaio continui. Senti, non avresti da prestarmi, già che ci siamo, che tanto tempo che ci conosciamo, sai che poi finisci che te li rendo. Va bene, dai, mettiti la mano sul cuore e tira fuori. Comunque è sempre il top, diciamo, e noi possiamo nasconderci, è sempre il top. Da questo punto di vista è sempre il top, dai. Non è che ce n'è uno uguale che va là in mezzo ai giornalisti a fare casino e dice dammi i soldi. Dammi i soldi, che cazzo di domande fai? La pettinatura dei calciatori. Vabbè, insomma, dai, è numero uno, dai, è il top, da questo punto di vista è il top. Per noi è il top del divertimento. Dai, c'è dubbio. Poi se la piglia con il governo dei tecnici, Berlusca, il governo dei tecnici, sei stati 15 anni, 20 anni al governo, questi un anno, senti, il 70% è disgustato da questa politica, ma sarà disgustato dalla vostra politica. Le elezioni siciliane hanno confermato quello che tutti i sondaggi dicevano, che cioè il 70% degli italiani è disgustato da questa politica, da questi partiti, da questi protagonisti. Ah, forse si riferiva anche ai protagonisti del suo partito, non da lui, però lui no. Lui no. No. Vabbè. Però la punturina maggiore di questa sera è per un personaggio a noi molto caro. Caro Parenzo, lo so che avresti voluto iscriverti pure te alla corsa per il formaglione, per la forgiacca, per la forcamicia, per il forgiaccone, per non so che altro si inventerà il signor Formigoni. Oggi è andato che è il forcappello, la forsciarpa. Mi suggeriscono la che ormai c'è di tutto. Signor Formigoni male, oggi era ospite al Cristina Parodi Live sulla 7, dove ogni tanto andiamo anche noi. È un'ottima trasmissione. Vabbè, grazie. Adesso devi leccare il culo come al solito perché siamo spesso ospiti là. Vabbè, ma non c'è problema. Tu poi, trasmissione. Tu come al solito sei addetto a queste cose vergognose. Allora, signor Formigoni, sì, ha sbroccato, questa è la sintesi, alla fine dell'intervista ha sbroccato, ha detto alla sua portavoce, devi andare lì e spaccare la faccia alla Parodi, poi la a parlare Carretta. Sì, sì, a Carretta, che peraltro pare si stia dimettendo, sì. E a questa banda e a questi giornalisti avete fatto solo cagate, se non lo fai si è licenziata, infatti si sta licenziando da sola, da quello che ci risulta. Esatto. Dunque la frase chiave qual è? Vai a spaccare la faccia alla Parodi o ti licenzi. Questa è la frase chiave. Formigoni ha sbroccato, perché? Perché gli hanno dato fastidio le domande su Zambetti, senti. Hai parlato conto di tanti controlli, ma bisogna fare dei controlli più accurati sulle persone. Ci sono, Webby, ci sono. Beh, ci controlli, non, sembra, non sono efficaci. No, mi scusi, dottoressa Parodi, ma torno a dirle. Un presidente di regione non può intercettare le telefonate. Poi senti questa cosa. Zambetti riempiva il Dalverme con le famiglie. Erano anziani, non andranghetisti. Ma caro Formigoni, non è che l'andrangheta la riconosci dalle riunioni familiari, dalle riunioni di Zambetti. Fosse così semplice, tutti quanti saremmo tutti a posto. Io ho provato rabbia, perché fra l'altro Zambetti era uno che raccoglieva voti di popolo. Io ho partecipato a due suoi comizi. Ha riempito in due serate consecutive il Teatro Dalverme, che è qui a Milano, a 1800 persone. Quindi ho visto 3600 persone vere che acclamavano Zambetti, che lo votavano. Io quando l'ho saputo era già in carica. Quelle persone lì? No, vede, guarda, si capisce, si ha l'occhio, si capisce, si vede che c'erano famiglie, bambini, anziani, eccetera. Ma perché, adesso per carità, ma non è che l'andrangheta non c'ha le famiglie, è proprio su quelli che si appoggia. Vabbè, ma al di là delle domande, adesso lasciamo perdere, una ma lasciamo perdere le risposte. Ormai, vabbè, questo lasciamo perdere le risposte. Il fatto è che ha sbroccato, ma noi qui abbiamo la persona cui vuole spaccare la faccia, signora Parodi. Buonasera. Oh, ciao, ben trovati. Stavolta le facciamo. Come sta? Stavolta come le domande sta? Le facciamo noi. Allora, invertiti. Allora, ma sempre quegli orecchini meravigliosi che aveva anche oggi durante la diretta. Oddio mio, questo attacca adesso. Quegli gli orecchini meravigliosi. Se li sarà tolti magari gli orecchini, no? No, li ho sempre su, sono i miei. Scusi un attimo, ma come si sente essere nel mirino del pugno, non di Formigoni, in realtà della signora Carretta, poverina. Però insomma, diciamo che Formigoni le avrebbe voluto tranquillamente dare un pugno in faccia, diciamola tutta. Ma Allora, io non ho assistito a questa scena, mi è stata riferita, sì, perché è successo dopo la sua presenza in studio e francamente non mi sarei mai aspettato un'esternazione così violenta verbalmente. Ha paura? Sono rimasta molto sorpresa. Ma no, non ho paura, perché credo insomma sia stato un modo di dire, però mi ha molto colpito, ecco, questa affermazione, e soprattutto se effettivamente avrà conseguenze sulla povera addetta stampa. Ecco. Beh, sì, pare di sì, pare che si stia divertendo, ma è normale se uno dice davanti a tutti, vai là, se no ti licenzio, vai a spaccare la faccia alla Parodi, ai giornalisti, a questa banda, eccetera, è normale che uno si dimette dopo, no? O no? Sì, forse sì, comunque non mi sarei mai aspettato un atteggiamento del genere, perché poi comunque questo confronto in studio è finito tranquillamente con una stretta di mano e un sorriso, non mi sembrava che ci fossero stati dei toni da imboscata, insomma, lui è venuto. Ma perché si è arrabbiato così tanto? E appunto, non lo so, cioè l'abbiamo invitato ed è ovvio che se decidi di venire in una trasmissione televisiva davanti a dei giornalisti, insomma, poi le domande arrivano. Ma è vero che non voleva domande da giornalisti, a parte te, naturalmente, no? No, ma io non lo so, perché non ho preso accordi io, ma l'hanno fatto gli autori, però non credo, insomma, non penso che si possa contrattare su che domande si possono fare. È ovvio che se Formigoni viene lì, Formigoni in questo momento è un personaggio molto discusso, e non è che si può parlare soltanto di una cosa, soltanto di politica e non di inchiesta, anche perché sono strettamente legate, quindi non è mai... Ma è normale che questi politici, qui capita spesso anche a me, che alle volte dicono, ma su questo però io non entro, e tu gli dici sì, certo, poi dopo però c'era il regalino. Cioè lui non ha tentato di non fare, di non ricevere domande su Zambetti? Sì, che ci ha provato. Oh, sì. No, non lo so se ci ha provato prima, però insomma per me non era neanche una questione possibile da discutere, cioè è ovvio che se viene lì Formigoni ci stanno delle domande sul suo futuro politico, sul PDL, ma anche sulle inchieste che riguardavano la regione Lombardia. Possiamo dire che si è comportato dopo come un cafone, anche davanti a tutto nei confronti dei tuoi giornalisti, eccetera? Devo dire che si è comportato in studio benissimo, perché poi abbiamo avuto il tempo di rispondere e quindi ha fatto il suo dovere. Mi ha veramente stupito l'atteggiamento che mi hanno riferito dopo. Un po' da cafone, diciamola tutta. Sì, Si può dire. Vabbè, cafone come le sue camicie, possiamo forse anche aggiungere. Ecco, ma è più cafone lui o le sue camicie? Le sue... Eh? No, direi così elegante. È una bella lotta. No, diciamo che le camicie a volte sono divertenti. Sono meglio le camicie. Ho associato una riga. L'atteggiamento così aggressivo non è mai divertente. Meglio le camicie, però, signora Parodi, scusi, se un uomo, sì, no? Un uomo a caso, se il signor Gori, no? Uno a caso, si mettesse delle camicie così, lei lo prenderebbe a calci nel sedere, lo manderebbe fuori di casa sicuro e farebbe benissimo, perché sono Gori elegante. No, non hai capito, cioè, non c'è questo pericolo. Mai, cioè non esiste proprio che Giorgio metta le camicie, anche perché non è mai a casa, da quelle azzurre, quelle bianche, anche perché in questo periodo non è mai a casa. Il top però ieri sera da Santoro, caro Parenzo, quando a un certo punto Briatore, in grandissima forma, devo dire, grandissima forma. Sì, l'ho visto. Io sono sempre dalla parte di Briatore quando affronta certi personaggi, sempre. Non parlavo della Costa Magna, naturalmente, ma in generale del clima, quando è lì in quell'arena e ti esalti quando sei in quell'arena così ostile, no? È perfetta quell'arena per Briatore, perché lui sente proprio, no, il gusto della battaglia, sente il sangue. Era come un toro lì con tutti questi che gli lanciavano banderine. Tutti questi che considera dei poveracci, lui, capito? Soldi, milionario. Considera alla fine dentro di sé, lo so che è quello che pensa, cioè pensa in questi casi dei poveracci, non hanno mai lavorato, mi rompono i coglioni. E infatti questo ha detto a un certo punto, senti qua che cosa dice la signora Penelope. Secondo voi abbiamo bisogno di 1200 persone per gestire un paese o basterebbero 200 persone? Scriva il suo libro, poi se uno lo vuole comprare lo compra, se lei dice lei delle cazzate sul suo libro glielo tiriamo sulla testa e non mi rompe i maroni. E il governo cazzo. È tutta la stessa cosa. Lei non cosa. Mi rompe i maroni, lì davanti mi serve. Ma vuol parlare, parli, vuol fare la pubblicità sul libro, come si chiama, lo facciamo vedere. Anche io non l'ho neanche nominato. Ma lei quanta gente lei mantiene? Quanta gente dà lavoro? Lei e tutti questi professori. Ma non dite niente, mandate via, non dite niente. Ce la voglio rossa e blu di corno. siamo al top, siamo al top qui. Siamo Beh, al top. Però scusami, adesso sai che a me Viratore è molto simpatico. No, è vero che uno non è che si può giudicare solamente perché mantiene o no 100 persone, 200 persone. Non è che può rompere le palle siccome. Ma siamo d'accordo, siamo d'accordo su questo, siamo d'accordo su. Diciamolo però. A me piace perché combatte. Un po' la tua anima, un po' che tua. A me piace perché di sinistra. Ma io non ho nessuna anima sociale di sinistra. Dico solo che mi piace perché combatte, non c'è dubbio. Però certo, poi se uno va nel merito dice non è che uno viene giudicato solamente perché mantiene 10.000 persone, uno può pure mantenere anche l'Andrangheta mantiene un sacco di persone, esatto, eppure sono bande di criminali, quello è chiaro. Scusi signora Prodi, ma lei lo rinviterà a Formigoni? Ma è caduta, scusa, signora Prodi è caduta? No, recuperate. Antonio, provincia di Reggio Calabria. Ma è caduta, come è caduta? È caduta, no, lei, la linea è caduta. Ah. Antonio, provincia di Reggio Calabria. Sì, sono qui. Vada. Allora, io... Sì, però la radio, la radio la deve spegnere, perché altrimenti sentiamo la voce doppia, tripla, quadrupla. A quegli ignoranti che telefonano per ingiuriare sia a Parenzo che al conduttore vero. Sì, ma non c'è problema, ci difendiamo bene da soli, Antonio, non c'è problema. A questa gentaglia. Ma non è gentaglia. Non ha nulla da fare. No, io vi seguo. Non dico tutte le sere perché a volte sono in giro. Ma non per c'è lavoro. Problema, Antonio, ci difendiamo da soli, non c'è problema. No, io sono felice che voi, però c'è qualcuno che meriterebbe qualcosa in più. Vabbè, e che qualcosa in più cosa? Le botte cosa? Meriterebbe qualche cazzottiata, come diciamo. Ma no, noi ma i cazzotti no, parti. I cazzotti no. Eccoci perché qui, un attimo solo. Vigliacci. Va bene, Antonio, un attimo solo. Signora Parodi, lo rinvita Formigoni? Come? Lo rinvita Formigoni? Ma perché no, certo, se ci sarà occasione. Ma come, si è dimostrato così capone, ha preso a male parole pure tutta la sua squadra, sti giornalisti, sono eccetera. Sono alla radio, chiamami dopo per cortesia. Vabbè, questo... vabbè però insomma se dal punto di vista giornalistico nostro sarà interessante intervistarlo, lo inviteremo di nuovo, tenendo presente che insomma è un soggetto difficile da gestire. Vabbè, difficile da gestire nel senso che vuole alcune cose... Diciamo che non so se lui tornerà, ecco, io potrei anche rinviarlo senza problemi, però visto quello che ha detto probabilmente non vorrà ritornare. Però voglio dire, forse una telefonata, siccome quella scenata, perché non era diretta a lei né a qualcuno del suo staff, comunque la frase ormai è abbastanza chiara, no? Cioè tu adesso stai qui e spacchi la faccia a Cristina Parodi, a questa banda, a questi giornalisti, avete fatto solo cagate, e questo rivolto a un'autrice del programma peraltro, e poi ancora la sua addetta stampa, e se non lo fai sei licenziata. Insomma, sono tutte cose accadute sul vostro territorio, mettiamola così, insomma nel vostro ambito di lavoro. Forse una scusa sarebbe dovuta o no? Una telefonata di scusa da parte del signor Formigoni. Certamente sarebbe gradita, ecco, se la facesse mi farebbe piacere. Ah, ecco, vediamo, allora facciamo questo appello, Parenzo. Signor Parenzo, fai qualcosa oggi oltre che parlare al telefono. Formigoni, quando apri il tuo armadio e scegli quale camicia, aperta parentesi o scena, chiusa parentesi, metterti per la tua giornata e prendi il tuo cellulare per mandare i tuoi inutili tweet anziché spiegarci perché hai fatto le vacanze con Dacò, trova 5 minuti di tempo per chiamare la signora Parodi o fare un bel comunicato alle agenzie. No, chiamare, che comunicato alle agenzie? Chiama in diretta domani non c'è, è sabato. Dai, su, ma stai sbagliando tutto come al solito. Chiamala al telefonino se vuole, glielo diamo non noi. Non vai in onda di sabato, scusa. Ma non vai in onda, lascia. Non andiamo in onda di sabato, te sei d'accordo. Bisogna chiamare il Bernabè e dire mandare in onda di sabato. No, ti prego, almeno un sabato. Bisogna chiamare al telefonino. Tanto il telefonino sono fatto. Lunedì chiami il signor Formigoni, la Parodi in diretta. Ma no, in privato, deve chiamare stasera stessa. No, perché ha insultato il programma e la redazione, quindi deve chiamare. Ma se lo facesse in privato io sarei contento. Ma sì, dai, su. Scusi un attimo, ma anche quando... io non amo tanto diffondere. Ma scusi un attimo, signora Parodi, ma anche quando è a casa il signor Gori manda sms a Renzi? Anche quando è a casa, mi dica la verità. Non lo so, manda sms, non ne ho idea. Insomma, mi dica che lo rimprovera un po' per tutti questi sms che manda Renzi. A un certo punto, io no, assolutamente. Suo lavoro, ma il termine, la parola adesso che è diventata. No, ma no, lasciami chiedere una cosa che stiamo finendo. Sì. Ma lei vota Renzi alle primarie del PD, ci va? Io sì, ci vado. A votare Renzi. Sì. Tutta la famiglia, diciamo la verità. Ha coinvolto tutta la famiglia. Famiglia, io. A presto, grazie. E siamo qui, la zanzara riprende alle 19.16, sento voci femminili in sottofondo però, David, chi c'è intorno a te? Ma quali voci femminili? Sono in un centro estetico e sto informandomi sulla depilazione maschile, poi ti spiego. Che cazzo di domande fai? Punturina, punturina, anzi punturone per il signor Saviano, Roberto Saviano, no. Sì. Uno dei campioni, sì, come no, uno dei campioni della banalità, uno dei campioni della banalità italiana, uno dei campioni, signor Saviano, ai carabinieri direi, rifiutatevi, ai carabinieri direi, rifiutatevi, senti. Mi piacerebbe poter parlare a quei carabinieri, a quei poliziotti, a quei finanzieri che fanno ordine pubblico e mi piacerebbe poterli invitare a rifiutare ordini violenti, per esempio di poter caricare manifestanti inermi. Ma quali ordini violenti? Quali ordini violenti, signor Saviano? Signor Saviano, mamma mia. No, ma sai cos'è anche? Che banalità, anche cose... banalità totali, no, totali. Ma può dire anche delle cose giuste, ma le dice con quella voce quasi di sofferenza. Cioè... vorrei dire, cioè come se fosse soffrisse mentre dice queste cose. Tranquillo, relax. Relax, relax. Com'è che diciamo? Com'è che diceva Monti quando mi fate le domande sulla, no, se continuerò anche dopo? Be, che era? Be, no, be relaxed. Be relax, relax. Titolo del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Vertice al Quirinale sull'Election Day. Napolitano vede Monti e i presidenti delle Camere per fare il punto su calendario parlamentare e legge elettorale. Berlusconi di nuovo contro Monti. Un anno di governo tecnico e risultati disastrosi. Ho fatto un passo indietro per favorire l'intesa con Casini. Di Pietro, Grillo è solo protesta, con lui nessuna alleanza. Parteciperemo alle primarie per votare Vendola o Bersani. Renzi è ospite del TG3. Il ministro Severino annuncia un'indagine sui lacrimogeni piovuti sul corteo di mercoledì per il questore, sparati da terra e rimbalzati su un muro. Escalation continua dei combattimenti a Gaza. Centinaia di raid israeliani. Hamas risponde lanciando razzi per la prima volta a Gerusalemme nel mirino. Arrestati gli attivisti italiani di un sito neonazista che in rete inneggiava la superiorità della razza bianca, preparavano raid contro i campi nomadi. Sulle rive del Tevere esondato, due giorni fa a Roma si spala ancora il fango, decine di aziende in ginocchio, capannoni ancora sott'acqua. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino, ruggisce tutta la notte. Senti un grillino evidentemente molto grillino, molto a favore di Beppe Grillo, non uno dei dissidenti, ha una televisione, senti. Perché non si riesce a parlare? Ci hanno dato poco spazio. Eh? Poco spazio. No, non c'è mai stato spazio, sono due anni che cerchiamo di fare delle domande e di discutere e non si riesce a parlare con nessuno perché c'è un'intolleranza diffusa. E ma se ne va. Comunque, sì. No, ma è una televisione questa? Bene, bene, ottimo. Allora ti posso dire, vaffanculo, va bene? È una televisione questa, dice a un certo punto. Ti posso dire, vaffanculo? Ti piace così, è loro prendo ormai. Rosy Bindi chiederà una deroga. La signora Bindi vuole sopravvivere a questo marasma che sta spazzando via tutto, tutto. Ma sai che a me questi che chiedono la deroga mi piacciono perché sono coraggiosi, hanno una dignità politica, ci mettono la faccia, dicono noi vogliamo restare perché vogliamo ancora dare qualcosa. Sì, ma è una buffonata la deroga però, non è che uno deve chiedere la deroga. Insomma, no, questo qua è un marchingegno ridicolo, comunque, ma... Bindi. Nel nostro partito abbiamo uno statuto dove c'è scritto che chi ha più di 15 anni per poter restare in Parlamento deve presentare domanda di deroga agli organi del partito. Lei la presenta? Io la presenterò, perché non mi sono mai autocandidata. Mi ma la sempre, presenta anche se mi ha sempre anche candidata. Se dicesse Renzi? Ma certamente. A maggior ragione. Certamente, ma perché no? Ma questo molto, dopodiché, siccome lo stesso partito che mi ha fatto fare il capolista a tutte le elezioni deciderà se in questo momento risulto o meno utile. Della serie interrogazioni pazze in Parlamento c'è un tale di Futura Libertà che si chiama Aldo Di Biagio. Aldo Di Biagio ha fatto un'interrogazione parlamentare. Un'interrogazione parlamentare, lo sai su che cosa? No, sul no. Blocco del grilletto delle pompe di benzina. Sul blocco? Del grilletto delle, non fare ironie, sul blocco del grilletto delle pompe di benzina. Ah no, beh, quello è. Beh, è una cosa fastidiosa, per chi ha la patente effettivamente. Tu non lo sai, tu non lo sai. Allora, il signor Aldo Di Biagio scomoda le scartoffie della Camera dei Deputati. Scomoda i deputati per questa interrogazione parlamentare. Però so problemi, effettivamente. Sì, so problemi. In merito alla questione risulta all'interrogante il crescente diffondersi in capo ai gestori di pompe di benzina di una prassi quantomeno ambigua. Laddove sempre più spesso tale meccanismo di facilitazione dell'erogazione, attivo durante il servizio di apertura del benzinaio, viene disattivato o comunque risulta non più funzionante dopo la chiusura, allorché resta attivo il solo servizio di self-service. E poi uno si chiede perché Flea ha problemi. In considerazione dell'evidente scomodità derivante per gli utenti dal dover essere costretti a tenere premuto il grilletto della pistola durante tutto il tempo dell'erogazione, tale prassi sembra palesare un malcelato intento di disincentivare in capo agli utenti, soprattutto a categorie più deboli quali possono essere le donne o gli anziani, l'utilizzo del self-service in favore del servito. Di Biagio! Di Biagio! Di Biagio! Il titolo Di Biagio ha posto una questione reale, il titolo dell'interrogazione è si allungano i tempi della pompa, cioè alla benzina, quando vai dal benzinaio lui pone un problema di tempo anche, uno sta lì con sta pompa in mano. Signor Di Biagio, ma non scomodi la Camera dei Deputati per queste stronzate, su! Che cazzo di domande fai? È con noi il senatore Mario Mantovani, buonasera, coordinatore per la Lombardia del PDL, come sta? Io sto abbastanza bene. So che è in convalescenza, che è successo? Sì, no. Io ho fatto un piccolo intervento, niente di grave, riprenderemo presto. Non ci dobbiamo preoccupare, no? No, assolutamente, ormai gli interventi sono, insomma, si fanno anche ad occhi chiusi, per cui... Vabbè. Berlusconi dice che questa mattina ha fatto 72 flessioni, esatto. Non sono poche per uno che ha la mia età, 56 anni. Sì. Parla di una straordinaria forma fisica, mi sento di 35 anni. Perfetto. E sono disposto pure a provarlo. Quest'ultima frase l'avrebbe detta anche a due giornaliste, vabbè, questo è il solito Berlusconi, Mantovani. Ma lei ci crede che fa 72 flessioni? Ci credo, perché ha deciso di rimettersi in forma, anzi in piena forma. Sì. Infatti lo ha fatto anche andando nel resort di Malini. Libriatore, sì. Insomma, si sta mettendo davvero in forma, io mi auguro, per riprendere la campagna elettorale. Ecco, ma non è che tutto questo sport gli dà troppo ossigeno al cervello e magari dichiara un po' troppo, magari, perché sai, quando uno riprende poi a far sport... Magari si carica, troppo... no? Ma io non ho mai sentito che lo sport faccia male, insomma, ecco. Beh, una certa età. No, anzi, ma no, al cervello. Bisogna sempre tenere i muscoli e gli arti in esercizio, e quindi io sono convinto che lo sport faccia bene a tutte le età. Scusi, no, ma davvero secondo lei dimostra 35 anni Berlusconi? Cioè, dal punto di vista, questo, del cervello? Io questo... Beh, lei lo frequenta, direi, lo vede. Direi che insomma 35 anni sul piano fisico forse è un po' complesso. No, quello no, quello no. Sicuramente se uno si tiene in esercizio può comunque essere in forma, ecco. Può essere in forma, può essere in forma. Certo, 35 anni rivolta a due giornalisti là. Abbiamo capito tutti, no? Senatore Mantovani, su, abbiamo capito tutti a cosa si riferiva, no? Vabbè, comunque quelli sono affari suoi. È un classico, un evergreen. Del sì, un evergreen. Sono questioni personali. Scusi un attimo, allora lei è per le elezioni gennaio oppure per il famoso Election Day? Immagino che sia per il famoso Election Day, giusto? Ma io ieri ho fatto una dichiarazione in cui sostengo... E questo, a noi non ci piacciono le dichiarazioni, sì. Nel cuore dell'inverno portare una regione come la Lombardia, una regione del nord, al voto non è mai avvenuto in 64 anni. Scusi, perché non si può votare l'inverno? Che significa? Non è che siamo in Russia. Che lei conosca l'aspetto geografico della Lombardia. Beh, e sì, delle ci abito. Del nord. Sì. che hanno le Alpi, che hanno le Prealpi. Non c'è dubbio. Generalmente la neve da Natale fino a Pasqua, grosso modo, non c'è dubbio, è alta. Sì. E che può benissimo capitare che ci siano delle nevicate. Sì. Lei conosce la temperatura della Lombardia, che molto spesso anche a Milano va sotto zero. Sì. Ecco, io trovo che se non in 64 anni nessun governo ha ritenuto, sì, di portarci al voto in quel periodo, ecco, non vedo tutta questa urgenza. Scusi, che cosa può accadere? Che cosa può accadere d'inverno come impedimento per andare a votare? Può accadere che, sì, se dovesse nevicare anche solo per 20-30 centimetri al sabato sera o al sabato notte, sì, la domenica si deve andare al voto, sì, francamente io trovo che sia complesso garantire l'accesso al voto, alle scuole, per le strade, la pulizia delle strade. Il generale inverno, lo possiamo dire così? Le montagne, il generale inverno. Io la vedo complessa, lei generale inverno. No, assolutamente. Mantovani, posso permettermi di dire che questa è una stronzata. Scusi, con tutto rispetto, glielo dico per carità, senza voler offendere nessuno. Ma mi pare. No, io non mi offendo, ma mi pare che la stia dicendo lei una stronzata, ma di quelle grosse. No, ma scusi un attimo, senatore Mantovani. Dice la sua, no? Ma se a un certo punto si scioglie il consiglio regionale per motivi politici, non è che uno guarda il calendario e dice: beh, è inverno, facciamo durare il consiglio regionale, scusi, la legislatura guardi, un po' di più. Al voto oltre 8 milioni. Ho capito, signor Mantovani, ma in inverno negli altri paesi ma si vota, si va a votare. Se il sindaco di Livigno dovesse chiudere per la giornata alcune strade perché non ha la disponibilità della pulizia delle strade, che cosa facciamo? Ma sono abituati gli anziani che vanno a votare, che devono farsi i gradini dalle scuole, magari non sono puliti. Cioè, lei ha mai fatto il sindaco come fa? Ma no, ma non è questo il punto. Ha mai predisposto d'inverno un paese quando nevica? Cioè, voglio dire, non è che non ma di cosa no, però lei può capitare. Signor Mantovani, scusi. Sì, però siamo nel cuore, ma non siamo nella Russia siberiana. Cioè, l'inverno lei viene gestito su. Che non ha mai fatto il sindaco. No, il sindaco non l'ho fatto, su questo non ci sono dubbi. Dopodiché, che sia difficile gestire le elezioni in inverno, questa francamente mi sembra una. Lei lo sa che gli uffici tecnici dei comuni, anche, sì, piccoli e soprattutto piccoli, si alzano alle 3 del mattino per riattivare la circolazione, però, verso le 8 o le 9. Però scusi, Mantovani, se si scioglie. Adesso noi andiamo a votare, apriamo i seggi alle 7. Se si scioglie il consiglio con questo no, cioè io non lo se so, si scioglie il consiglio regionale per motivi politici, non è che uno aspetta 6 mesi, 7 mesi che si sciolgano le nevi per votare. Cioè, mi sembra una cosa al di là del bene e del male, una cosa di questo tipo. Cioè, la politica non è che può aspettare il tempo. Durano 6-7 mesi. No, io ma l'inverno, votare nel cuore dell'inverno è sbagliato. Vai. Si vota 3 settimane scusi dopo ed è, secondo me, scusi, molto più in sicurezza, sì, scusi, che non ho capito. Un attimo solo, ho la borsa, poi torniamo subito, perché questa cosa qua va definita una volta per tutte, perché Mantovani dice in piano inverno in Lombardia non si può votare. Io dico che è una cosa che uno solo se ci pensa è una follia, però per carità, poi capisco, ci saranno dei problemi, ma le elezioni sono le elezioni, si va a votare, tic, si mette, uno si reca al seggio e vota, cioè, a meno che non ci siano 50 centimetri di neve, meno 50, ma insomma è un caso eccezionale che si può verificare pure una azione fortissima anche il 20 di marzo, tutte le strade bloccate come l'altro giorno. Allora, che vuol dire quello? Well now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So, I'm nature's mosquito. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Caro Parenzo, beh, l'Italia è l'unico paese in cui la data delle elezioni, qualsiasi elezione, non è mai certa, dipende da mille motivi, da mille variabili. C'è, ma io volevo dire, aspetta, c'è il generale inverno, come adesso ha detto il senatore Mantovani, per carità, lo dico con tutto il rispetto, lui dice che non si può votare d'inverno, in 64 anni non è mai successo, però ecco, a me pare quello che ho già detto, prima cosa. Poi dipende, leggo oggi di ricorsi su ricorsi nel Lazio, cioè, ma vi pare possibile che le elezioni nella regione Lazio debbano dipendere da una sentenza del Consiglio di Stato e del TAR? Io divento pazzo, cioè non è che un paese può essere gestito in questo modo, con il Consiglio di Stato, con il TAR. Consiglio di Stato l'estate è una cosa, il generale inverno è un'altra. Sì, ma è uguale, perché ma non no, c'è no. nulla di certo, non c'è niente di certo. Io voglio dire al senatore Mantovani, è frutto sempre di accordi, compromessi. In altri paesi c'è una data che è quella certa, sicura, in cui si va a votare. Se dovessero succedere casini politici, uno scioglie la cosa, poi entro quei giorni si fanno le elezioni. E no, non mi conviene a me, non conviene a te, è meglio prima, è meglio dopo, si risparmia quando hai buttato a mare già centinaia di milioni di euro in tutta la tua attività politica per non fare assolutamente nulla, quando hai sprecato milioni su milioni di euro e non hai mai pagato per questo. Adesso no, oggi non so se lei concorda, ma è la prima volta che abbiamo tre regioni che cadono improvvisamente, insomma, ecco, non è che sia una cosa usuale e consueta. Ho capito, senatore Mantovani, però a ridosso delle elezioni nazionali è quasi naturale che si tenti di spendere il meno possibile, ma scusi, mettendo però i cittadini, ma io le segnalo di poter votare con serenità. Ma perché non si oltre, può votare oltre all'inverno? Oltre all'inverno c'è un altro dramma incipiente, che qual è quello del riscaldamento globale. Allora non vorrei che poi causa riscaldamento globale venisse procrastinata ulteriormente la data, ma perché dobbiamo affidarci al generale Giuliacci per fissare la data delle elezioni? Perché vabbè, comunque Mantovani, lei la pensa così, noi la pensiamo in modo diverso. No, guardi, io faccio il sindaco e cerco di prevenire tutte quelle che possono essere le questioni che mettono in difficoltà gli elettori. Vabbè, gli elettori sono anche gente di 60, 70, 80 anni che possono andare tranquillamente a votare non in un giorno di freddo e di neve, non un giorno, cioè lei dice che gli anziani con la neve non possono andare a votare. Lei dice no, questo. No, guardi, io non possono andare a votare, va bene. Fissarlo al 10 di febbraio è comunque un giorno a rischio. Non ho detto che nevicherà il giorno 10 di febbraio. Appunto, tra l'altro. Cioè, ma è un giorno a rischio. E vabbè, ma è il rischio tutto nella vita. Ci sono tanti rischi. Il sabato notte e la mattina siamo sotto 5 gradi, chi esce di casa? Lei ha mai stato in un comune capito, a fare ma il sindaco? Scusi, ma se si fossero fissate le elezioni la settimana scorsa, quando c'è stata la devastazione con l'acquazzone in tutta Italia, che cosa sarebbe accaduto? La stessa cosa? Che le avrebbero sospese. E capito, in quel caso le sospenderanno. Cioè, ah, non... ecco, le sospenderemo. Ma bene, in alcuni paesi le sospenderanno, non lo so. Ma io non so perché rinviare di 15-20 giorni, che siamo quasi in primavera. Ma non si tratterebbe di 15-20 giorni. Rinviare al 10 di febbraio. Non si tratterebbe di 15-20 giorni, lo sa benissimo. Comunque, no, se si vota la prima settimana di marzo, è un mese. È un mese. Febbraio a 28 giorni, quindi è proprio più breve. Vabbè, quello è l'accordo su cui si sta lavorando, poi vedremo. Senta, senatore Mantovani. È un accordo possibile. Senta, senatore Mantovani, ma mi dica la verità: Albertini, che dice di voler stracciare la tessera del PDL se il PDL appoggia Maroni, che mossa è? Una cosa di cattivo gusto? A me dispiace che dica così, perché insomma stracciare una tessera è sempre un gesto che non va bene, insomma, soprattutto se la tessera magari qualche volta è servita, forse per essere eletto in Europa piuttosto che in altri ambiti parlamentari. Quindi ecco, sputare nel piatto dove si è mangiato non va mai bene. Non va mai bene. Albertini, secondo me, lo dice perché vuole essere super partes e soprattutto lontano dai partiti, perché ritiene che oggi il popolo voglia una persona al di là dei partiti, però, comunque al di fuori dei partiti. Però scusi, secondo me sbaglia. Però. No, ma al di là di questo, io su questo sono d'accordo con lei. Guardi, io ho una grande stima e un grande legame anche, devo dirlo, con l'ex sindaco di Milano. Però io l'ho detto anche in faccia a lui: caro sindaco, lei è stato eletto col PDL, c'è la tessera del PDL. Non è che è un marziano, è del PDL, o esce dal PDL e fa una scelta, oppure non è che può dire no, mi fa schifo il PDL, sono un candidato della società civile, perché è evidente che non può essere così, no? Cioè, devo dire che condivido quello che dice lei. Ma non, Parenzo, tu che dici? No, beh, secondo me Albertini sta facendo una battaglia politica giusta. Ma credo uscisse dal PDL, uno esce dal PDL e fa la battaglia, ho capito. Fa difesa del PDL. Ma che difesa del PDL, ma quando perché mai? Dai, su. Di essere il candidato migliore in questa fase. Però scusi, tra Maroni e Albertini lei chi sceglie? Beh, io tra Maroni e Albertini scelgo Albertini. Vabbè, d'accordo. Se ovviamente trova l'accordo con la Lega, altrimenti l'idea di andare a lui dice che non la vuole trovare. Il Popolo della Libertà è un'illusione, una pia illusione che non ci possiamo costruire. Lui dice che l'accordo con la Lega non lo vuole fare, bisogna fare un'altra cosa. Albertini l'ha detto fino a qualche ora fa. Non so cosa ha in mente Albertini. Lo scaricate? Lo scaricate nuovo, o no? Il nuovo De Gasperi, fare il PPE, il nuovo De Gasperi, il Partito Popolare Europeo. Beh, Partito Popolare Europeo, sì, abbiamo quella dimensione, insomma. Sì, quindi, vabbè. Credo che sono sigle, sono formule, su. Queste sia un po' la sua volontà, però secondo me lo si deve fare in un contesto di collaborazione, di condivisione, non personale. Sì. Senta, ma è vero che lei ha visto Berlusconi fare le flessioni? Fare? Le flessioni. No, non l'ho visto. Non l'ha visto in faccia fare le flessioni? L'ho visto correre, ho fatto un periodo a Villa Certosa, insomma è stato una bellissima esperienza. Ma se fa un altro partito, un'altra lista, lei entra in questa lista? Io penso di sì. Sì, Lei se lo augura anche, no? Se lo augura, no, diciamo. Augurarmelo no, perché... Però se fa una lista io... La battaglia del Popolo della Libertà... Come la chiamerebbe questa lista? Come la chiamerebbe? Siccome è il presidente del Popolo della Libertà, sì. Io lo chiamerei Cantiere Italia. Cantiere Italia? No, Cantiere no. Metti sì. Corri Italia, no. Bello. Cantiere è la riapertura, è la ricostruzione, Cantiere la Italia. Ripresa, io la chiamerei così. Cantiere Italia, sì, vabbè. Sì, perché l'Italia è veramente un paese che ha bisogno di essere rimesso in sesto. Non c'è dubbio. Cantiere, ce lo dite dal 94 che serve per riaprire gli orizzonti e ricostruire un paese. Non c'è dubbio. Sì, è dal 94 che lo ripetete, ma non è un problema. È vero, lei ha perfettamente ragione in questo caso. Qualche cosa abbiamo fatto. Molte difficoltà incontrate, ma soprattutto il fatto che l'Italia è un paese che ha quattro teste. Il Parlamento, uno il Presidente della Repubblica, uno il Governo e l'altro la magistratura. Intanto mi sembra che ci sia un comunicato del Quirinale, prima del voto delle politiche fare legge di stabilità elettorale. Per il voto nelle regionali è auspicabile il 10 marzo. Qui però. Sì, vedi, abbiamo già trovato la data giusta. Però visto? Il problema è un altro. È ha che, avuto ragione il senatore Mantovani. No, ma al di là del senatore Mantovani, il problema è che c'è questo. Il casino. Scusi, il Ministero degli Interni l'altro giorno non ha detto che le regionali sono state fissate all'inizio di febbraio. Cioè adesso, era una proposta, certo. Ma sì, dai, su, ma è tutto un casino. Scusi una cosa, ma ha visto Formigoni che ha sbroccato? Che ha sbroccato dalla Parodi? Senatore Mantovani, ha detto... No, io non seguo queste cose, io cerco di seguire il mio comune... Ma che futuro ha Formigoni? Che futuro, Senato. Che futuro ha Formigoni? Al Senato ci va poco lei, il 30% di presenza, comunque... Questa... Beh, deve dire che io sono missioni, stato... Missioni, però... No, sono stato per 3 anni e mezzo al governo e quindi lei sa che quando è al governo, sì, essendo senatore, comunque, non può andare in Senato. Comunque, 30% di partecipazione al voto. Insisto, perché ho fatto 3 anni e mezzo al governo. Che era sottosegretario. Io, esempio, e quando uno fa il sottosegretario non può andare in Senato. Scusi un attimo, anche il sindaco. Ma, il sindaco al sabato e la domenica, che non incide sul Senato. Cos'è che volevo dirle? Formigoni, che futuro ha Formigoni? Ma io gli auguro un futuro, insomma, Formigoni è un uomo di grande esperienza, ha governato per 17 anni la più importante regione d'Italia. Ma la Russa dice, per esempio, la Russa dice che Berlusconi non è indispensabile, non è più indispensabile. Secondo me sbaglia la Russa in questo caso. Sì. Sbaglia. Ma lo vede Berlusconi è il nostro fondatore, quindi io credo che... Una sorta di, come ha detto Alfano, una sorta di Scalfari, insomma. È così, ha detto Alfano. Il fondatore del Popolo della Libertà e credo che abbia titolo non solo per rimanerci e per rilanciare il Popolo della Libertà, ma dar la scossa se serve. Dare la scossa, come lo vede? Dove lo vede? Al Senato? Al Senato. Io sono perché non si facciano più di 3 legislature per assemblea parlamentare. Al Senato. Sì. Vabbè. Beh, questo è buono. Al Senato come senatore a vita oppure eletto? Eletto. Se poi lo vogliono fare senatore a vita, è meglio anche qualche trovare credito se l'è guadagnato. Qualche credito come senatore a vita se l'è guadagnato. Se lo popolo vogliono fare. Abbiamo fatto Monti, mi scusi. Perché scusi? Cioè, perché, quali sono i meriti? Ah, dice, meglio ha più meriti di Monti per fare il senatore a vita, dice lei. Sicuramente sì. Sono 20 anni. Beh, sì, è vero, ha ragione, fare le vacanze con D'Accordo, merito. Ma che c'entra? Quello non è Formigoni, stiamo parlando di Berlusconi. Sì. Parenzo, non hai capito nulla, vabbè. Si è distratto un attimo. Ma era distratto perché comunque il discorso su Formigoni mi ha lasciato attonito, diciamo. Senatore Mantovani, va bene, la saluto, stia bene, si riprenda. È stato molto gentile come sempre, vi ringrazio della cortesia. Se ci dice così sembra che... Il fatto che non mi mettete sempre in... Cioè, non mi mettete in grande difficoltà. Come? Non ho capito, scusi, che ha detto? Ho detto che vi ringrazio perché mi accogliete sempre con affetto e non mi mettete in grave difficoltà. Ma no, come non la mettiamo in grave difficoltà? Se ci dice così ci metterà in guai. Insomma, io sento le vostre trasmissioni, certi personaggi. Ma guardi che noi ogni tanto con qualche risatina la pigliamo in giro noi. Cioè. Insomma, io non mi sento preso in giro, anzi abbiamo condiviso il tema della data delle elezioni, abbiamo fatto la dibattita. Beh, insomma, sulla data delle elezioni noi diciamo che l'ha detto una stronzata. E su Berlusconi non siete stati assolutamente ingenerosi. Bah. Ma ormai cosa vuoi dire su Berlusconi? Scusa. È come sparare sulla Croce Rossa. No, grazie. Assolutamente no, non lo conoscete bene. Grazie, a voi. grazie. Buona serata. 800 24 00 24, andiamo a Modena. Dino, buonasera. Buonasera. Dica. Quando sento certi politici mi cadono le braccia, sentire Formigoni così, perché io credo che in Italia ci siano tre estremismi, cioè l'estremismo di sinistra, l'estremismo di destra e l'estremismo di centro, che è il più pericoloso, sentire Formigoni, sentire chi ci ha governato, io penso che... Che pensa lei? Che l'estremismo di centro è quello più pericoloso, Comunione e Liberazione, qua a Modena abbiamo Giovanardi che a dir poco... ridicolo, cioè pietoso, ridicolo con le sue idee. Ma che vuol dire pietoso, ridicolo, Comunione e Liberazione? Le mette in mezzo tutti, c'è un grande calderone. Sì, Comunione e Liberazione sono estremisti. Cioè, ma estremisti? Che vuol dire estremisti? Non sono estremisti per niente. Cioè, sono estremisti. Estremisti di centro. Cioè, estremisti di centro, vabbè. Vabbè, poi Dino? Io mi auguro che le prossime elezioni ci siano 120, 130, 150 deputati grillini, come le chiamano 5 Stelle, in modo da poter scoprire le porcherie che fanno da questi estremisti. Da spazzare via tutto, come dicevi, da spazzare via tutto. No, io voglio sapere le porcherie che fanno questi estremisti. Vabbè. Ecco. Grazie, intanto il Quirinale dice che il succedersi di elezioni non è una cosa positiva. Il Quirinale apre l'Election Day, no all'affannoso succedersi di prove elettorali. Bah. Nando da Perugia. Buonasera. Dica. Senta, intanto lei è una persona molto colta e molto acuta. Assolutamente no. Comunque. No, glielo dico io. Comunque, vorrei avere solo un minuto per dire una cosa. No? Le parlo di Zampetti, di Fiorito, di Lusi, di Maruccio, no? Queste persone qui hanno agito... Sì. Secondo loro, intanto pare che leggi. i vitalizi no, dei consiglieri regionali... Non parlo di vitalizi, no, non parlo di vitalizi. Volevo io dire... dico se loro... queste persone qui avevano disponibilità, no? I chiamano i fondi destinati ai partiti, ai gruppi consigliari dei consigli regionali, sì. Avevano a disposizione milioni di euro, no? Sì. E i loro governanti, i loro superiori, e quindi mi riferisco ai presidenti di regione, come ma facciamo anche i nomi, cioè Polverini, Formigoni, sì. E il signor Maruccio, era sotto la... Questi qui sanno benissimo che questi avevano a disposizione talmente tanti di quei soldi che anche se non li avessero adoperati illecitamente, io dico, ma secondo lei questo è un paese che si può permettere di dare tutti questi soldi alla disponibilità di persone normali? No. Queste sono, mi faccia finire solo un secondo. No, ma secondo me queste sono rapine. Sa che è la rapina? La rapina a mano armata è l'impossessarsi di un bene altrui mediante violenza o minaccia. Questi qui hanno fatto delle rapine nei confronti della povera gente, della gente ammalata. Vanno a togliere i soldi ai malati di SLA, a gente malata cronica. Ci sono genitori anziani che devono assistere i figlioli che non hanno nessun aiuto, figlioli malati di SLA. Ma non esageriamo adesso, su. No, questi sono dei rapinatori che... Sono rapinatori in gravatta, ma fanno più male di coloro che agiscono con le... E poi un altro caso, il capo, il signore lì dell'IDV, no? Sì. Lei non so se ricorda gli anni 92-93, quando metteva le corde certi personaggi come Cracci, come Forlani, si ricorda la bava alla bocca? Sì, sì. Ce la ricorda? Sì. Si ricorda Cusani? Sì, sì, allora? Come allora? Lei ha visto che è diventato quel signore, è diventato il capo di un partito, no? E allora? Come? E allora, io l'altra sera l'ho visto alle corde, sia da report, che dopo lì faceva un po' il simpatico sulla sette, l'ho visto alle corde, come lui metteva le corde i suoi imputati. Ho visto lui in quel senso lì, persone che acquistano case sopra case, li affittano poi i propri partiti e prendono i soldi dell'affitto, non la comodità, perché devo andare sul mercato? C'ho il partito mio, l'affitto al mio partito, in più con i soldi del partito queste case se le ristrutturo, vabbè, se le metto a posto. Grazie Nando. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Aldo Busi, ormai intervistato a destra e a manca. Linea notte. Sentite. Ma senta, potrei dire che tuttora un pelo di figa tira più di una rampa missilistica. Questa è la sua lapidaria completa. Sulla complimenti a Petreus, ovviamente, perché poi uno che possa ancora dire attraverso le mail i segreti di Stato, ma le email, ma che stronzate sono queste? Le email sono a disposizione di tutti. Zanzara è l'imprendibile insetto che le più volte non lo vedi mai. Spegni la luce. Ancora Busi, l'odoro. La gente è per come chiava. Se chiava bene è buona, se chiava male è cattiva, e non c'è alcuna differenza fra una lavandaia, un capo spirituale o uno di Stato. Dimmi come chiavi e ti dirò chi sei, cosa aspettarmi dalla tua gestione del focolare domestico o del bene pubblico. Questo mi sembra un po' esagerato, il signor Busi. No, no, no, è un grande aforisma questo. Briatore versus Costa Magna. Ma se ci pensi, ha ragione l'intellettuale Busi, perché da quello si capiscono mille cose, perché si capisce l'attenzione che hai verso la cosa che c'è di più caro. Quindi è vero, ha ragione Busi quando dice dimmi come fai l'amore, ti dirò chi sei. È vero, pensateci. Briatore versus Costa Magna. Visto che però lei incarna il mito dell'uomo che si è fatto da sé un modello da imitare, l'abbiamo visto fare il boss, il maestro, dicendo ai giovani cosa devono fare per avere successo, io vorrei che questa sera dicesse loro cosa non devono fare sulla base della sua esperienza, cioè quali errori lei ha commesso e loro non devono imitare. Almeno stasera abbiamo anche la maestrina, per cui ha fatto il compito di classe. Che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Allora, sostanzialmente, cosa ha detto il Quirinale con questo comunicato? Secondo me siamo ogni tanto al di fuori della realtà, Cioè, prima l'indicazione della data delle elezioni delle regioni per l'inizio di febbraio, adesso si sposta al 10 marzo, un casino pazzesco, la gente non capisce chi decide soprattutto, questa è la cosa incredibile, cioè le persone sono rimangono straniate, non riescono a capire chi decide, questo è il punto, chi decide? Il Presidente della Repubblica, i partiti, la legge, chi decide? Ferdinando da Novara. Pronto, buonasera. Dica. Niente, mi agganciavo al discorso che si faceva ieri relativamente alla piazza e al tasso di rabbia che sta salendo. Io ho una famiglia, 45 anni, una famiglia con due bambini, devo dire che provo simpatia per questi movimenti. Diciamo che sono Lei ha simpatia per i movimenti, ma ha simpatia pure per quelli che tirano le pietre che bastonano i poliziotti? Sì, simpatia per tutto, perché qua oramai lei ha simpatia per tutto. Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Ma no, perché ognuno poi diciamo che c'è una sorta di tiro al piccione, no? Come stasera avete intervistato Mantovani, l'avete fatto nero, ridicolizzato, cioè rispetto a questo, come mi devo sentire io? E che fa? Va a tirare i sassi o a picchiare no, la polizia, detto che scusi. Simpatia, ho detto che sto a casa, purtroppo io sto a ma casa. Ma simpatia perché cosa? Simpatia perché cosa? Simpatia perché siamo arrivati secondo me al punto che tanto peggio. Ma questo tanto non meglio. Ha nulla a che fare con le manifestazioni, ci sono decine e decine di personaggi violenti, di criminali che scendono in piazza al solo scopo di distruggere, non ha niente a che fare con la crisi, con l'Europa, con l'austerità, con tutte queste cose di cui la gente che sta in piazza la maggior parte delle volte non sa nulla, niente, niente. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Formigoni, ospite da Cristina Parodi al Cristina Parodi Live, perde le staffe per alcune domande sul signor Zambetti. Non voleva domande su Zambetti. Non voleva domande su Zambetti. E all'uscita del programma, alla sua portavoce, da quello che aggredisce, mi dicono, aggredisce verbalmente la signora Gaia Carretta, portavoce del medesimo Formigoni, certo, memore Domini, e le dice: adesso vai a spaccare la faccia alla Parodi oppure ti licenzio. Le ultime dal Pirellone. Abbiamo trasmesso l'ultimo notiziario. Però la cosa più incredibile di questa vicenda è pochi minuti fa Cristina Parodi, ospite qui alla Zanzara, ha detto che è un cafone Formigoni, anche se lo ha detto in maniera... Che si aspetta una telefonata. Di scuse. Ovviamente lo ha detto in maniera molto gentile, come suo costume, non è che ha aggredito Formigoni. Adesso vedete i titoli anche... Non ha usato anche... il linguaggio della Zanzara, ecco. Ecco, sì, diciamolo chiaramente. Ha usato il linguaggio della Parodi, non il linguaggio nostro. Noi avremmo fatto l'inferno al posto suo. Io gradirei dire che forse sarebbe opportuno che il presidente potesse... Caro Formigoni, se non l'ha ancora fatto, faccia una telefonata. Il numero di telefonino della Parodi lo conosciamo, se vuole glielo diamo. Aspetta che glielo diamo, 335. No, non dare il numero di telefonino alla Parodi, scusa. Però al di là di tutto quello che è accaduto, e su cui purtroppo non abbiamo il contributo audio perché non era registrato, perché era fuori dallo studio, vi offriamo però una perla del Formigoni di oggi, che a proposito della vicenda Zambetti, era uno che nei suoi comizi elettorali, nelle sue riunioni elettorali, aveva un sacco di famiglie che andavano a riunirsi, per esempio al Teatro da Verme c'erano migliaia di persone, un sacco di famiglie, uno li guarda in faccia, non è che pensa che sono dell'Andrangheta. Formigoni mio, non è che l'Andrangheta la si pizzica in questo modo. Io ho provato rabbia, perché fra l'altro Zambetti era uno che raccoglieva voti di popolo. Io ho partecipato a due suoi comizi, ha riempito in due serate consecutive il Teatro dal Verme, che è qui a Milano, a 1800 persone, quindi ho visto 3600 persone vere che acclamavano Zambetti, che lo votavano. Io quando l'ho saputo era già in carcere. Ma chi le ha portate quelle persone lì? Si capisce, si ha l'occhio, si capisce, si vede che c'erano famiglie, bambini, anziani, eccetera. Ma gli anziani, a me queste cose mi fanno impazzire. Comunque la notizia di oggi, dimmi. Che non è che se uno che va in teatro e uno vede un signore con la coppola grasso che dice: presidente, che devo chiedere una cosa, non è che allora quello, capisci? Perché Formigoni pensa che la mafia sia quella roba lì, uno si avvicina con la coppola tutto grasso e dice: presidente, sta bene la sua famiglia? Ma non è così. Allora, il Quirinale per le elezioni ha preparato la data del 10 marzo. Qui è il solito casino. Io ripeto, chi decide? Chi decide che si vota a febbraio, a marzo? Ora il Parlamento. Adesso dice il Quirinale. Adesso il Quirinale. Vabbè. È con noi il mitico, mitologico da Enna, dalla Sicilia. Ma che sta a fare in Sicilia? Ugo Sposetti, buonasera, senatore del Partito Democratico. Come state ragazzi? Dove bene, state? Combattiamo come leoni qua. Vi siete iscritti? Avete firmato la carta d'intenti? Vi siete preiscritti per votare alle primarie? Io ancora Bersani, no. Mi raccomando. Però, no, Bersani no, che Bersani? No, Parenzo va a votare. Adesso. Parenzo va a votare per Bersani, dunque un voto ce l'ha assicurato. Parenzo, bene, bravo. E Parenzo... Cruciani lo convinceremo. No, stiamo girando per convincere a preiscriversi e poi andare a votare il 25. Secondo me Cruciani deve vincere il 25, Cruciani. Ah, deve vincere al primo turno, dici? Certo. Se no sono casini al secondo, eh. No, non sono casini, però le pratiche si portano a termine, si archiviano subito, no? meglio archiviarle subito, insomma. Certo. Hai visto mai che cosa si potrebbe aspettare, qualche colpo gobbo da Renzi tra il primo e il secondo turno, che dici? No, non c'è nessun colpo gobbo, Impossibile. Sono state serene, tranquille. Impossibile. Qualche colpo sotto la cinta, ma insomma andiamo avanti. Beh, diversi colpi sotto la cinta. Vabbè, ho detto qualche. Adesso, qualche colpo. Comunque, guardi, io mi preiscriverò. In realtà sono a Firenze il 25 a fare la maratona. Grande maratona di Firenze il 25 di novembre. Però allora come fa? Mica, non è mica uno studente fuori sede che no, può andare a Firenze. No, il primo, infatti quello è un problema. Quello è un problema. È un problema. Ma è previsto che i maratoneti votano fuori sede? Ma non è previsto nemmeno che quelli che hanno la residenza a Milano votino a Firenze? Se sono fuori per lavoro, deve scriversi subito, mandare un'email alla sede del PD e gliel'accettano. Ma chiamo Renzi a Firenze, mi faccio raccomando. Ma non lo sa lui, queste cose non le sa. Perché dice lei non le sa? Queste sono cose molto dettagliate, lui è fare altre cose. Lui dice non è capace. Ognuno di... fa il suo. No. Non studia, dice, non studia abbastanza. Questa no, che sono cose di dettaglio, di regolamentari. Ma no, ma chiede una raccomandazione, dico, per votare a Firenze. Dico, fai qualcosa, magari riesco a votare. Ma questa, non c'è bisogno di una raccomandazione. Telefono io ai compagni del comitato elettorale e faccio scrivere Luciani. Forza. Guardi, io voto Renzi però, È un voto, non è problema, basta votare. Basta votare, bravo, Sposetti, giusto, è giusto così. Adesso. Ma è un democratico, Sposetti, cosa certo voti per Bersani, no? Quello è chiaro. Ma scusi, Sposetti, perché non gli dà già una scheda prevotata con sopra scritto Bersani e poi dice, consegni questa, Luciani, consegni questa. Vabbè, Renzo. Comunque, Sposetti, qui è un casino. Se vince Renzi, che succede? Un'ipotesi inverosimile, impossibile. Marzia, è come se. Faccia un paragone. No, ipotesi lunare. È un'ipotesi che non è nemmeno da prendere in considerazione. Non è di scuola. Non è di scuola, cioè un'ipotesi è come l'uomo che ne so, è come l'uomo che arriva su Marte. Sì, un uomo che fa figli, sono cose che non esistono. Insomma. So, addirittura così impossibile, secondo lei? È impossibile. Impossibile, cioè lei dorme sereno? No, dormo tranquillo, lavoro, come vedete mi beccate a Enna. Però dorme tranquillo, su, non ha preoccupazioni da questo punto di vista. No. Anzi, insisto nel dire che bisogna fare uno sforzo in questa settimana. Per vincere al primo turno? Sì, per archiviare la pratica. Archiviare la pratica. Perché tra il primo e il secondo turno qualche cosa, in realtà, qualche scherzetto. No, ci abbiamo da fare una settimana, poi vedete che le elezioni l'avete annunciata adesso, questa dichiarazione del Quirinale. Sì, un po' strana. Un mese prima, quindi bisogna prepararsi. Ma scusi, Sposetti, dopo queste primarie, Renzi entrerà nella storia o entrerà nel dimenticatoio totale? No, è un giovane che ha fatto una battaglia politica. Quindi entrerà nella storia del Pantheon della sinistra? Adesso nel Pantheon mi sembra un po' esagerato. Pantheon però, no, adesso su. Aspettiamo fra 70 anni, 80, insomma, sì, il tempo di vivere la sua vita. Ma non ha trovato strano lei da uomo di sinistra che l'altro giorno un sacco di gente di sinistra o presunta tale in questo dibattito che hanno fatto su Sky abbiano parlato di Papa Giovanni, altri ancora del Cardinal Martini, è un po' strano. Quella è una domanda un po' complicata, è una domanda che troppo seria, non si dovrebbe fare, perché non è che uno può rispondere con una battuta con 15 secondi. Nel suo Pantheon chi c'è? Del Pantheon, la cultura è una cosa più complicata. Ma lei, per esempio, se l'avessero chiesto a lei, no, cosa avrebbe risposto? Berlinguer? Berlinguer. Togliatti anche magari. Togliatti, che ne so. Adesso non esageriamo, devo scegliere uno, scelgo Berlinguer, quello che nell'immaginario collettivo italiano è quello più amato. C'è nulla da fare. L'uomo Lasciamo perdere Tabacci che, come dire, ha un'altra cultura politica, no? A nessuno di quei tre è venuto in mente, di quei quattro è venuto in mente Berlinguer. Vabbè, ma questo non è un problema, una domanda così che non dovrebbe essere nemmeno posta, perché la formazione culturale è molto complessa. Anche il riferimento a Papa Giovanni è un riferimento a 50 anni fa, al Concilio Vaticano II, all'apertura. Vabbè. Lì era uno scontro vero tra innovatori e conservatori, no? Ve lo ricordo, fino a qualche anno fa non c'eravamo. Però lo scontro era tra innovatori e conservatori, certo. E oggi ma lo sa Reggi, lo conosce il signor Reggi, no? No, lo leggo, mi sembra un po' sopra le righe, però lo vedo. Coordinatore della campagna elettorale di Renzi. Ha parlato di scagnozzi di Bersani. Una cosa pazzesca, quelli che hanno cambiato le regole delle primarie, gli scagnozzi di Bersani. Ma un po' se si può fare, ad operare un termine. Gli scagnozzi di Bersani. Una cosa. Ad operare un termine per quelli che sono iscritti allo stesso partito, sono cose incredibili, il termine scagnozzo. C'è una cosa. Quando si sta, uno è iscritto al circolo della bocciofila di Caricatti, c'è un sentire comune perché si va a giocare a bocce. Si può discutere, si può amareggiare perché uno non riesce a bocciare, ma insomma non è che dice scagnozzo all'altro. Tra l'altro un'altra, la notale Biagiotti, responsabile dell'organizzazione del Comitato di Renzi, dice: i DS non credevano nel progetto del PD. La prova, all'estate prima della nascita del PD, Sposetti, all'epoca tesoriere dei DS, lei la conosce questa Biagiotti? No. Ma non so, ci fece una riunione in fretta e furia. Ho fatto tante riunioni in quel periodo, le faccio ancora oggi, come vedete mi trovate a Enna dove ho fatto una riunione. Vabbè, lei dice che voleva mettere al riparo il patrimonio immobiliare del partito per questo non aveva fiducia nel PD. Vabbè, comunque queste sono polemiche vostre. No, ma io però dico, guardate che questa, io adesso mi hanno informato per dire che capire di che cosa rispondere. Viene da Sesto Su Fiorentino, ma lei sta negli organismi dirigenti della fondazione di Sesto Fiorentino, era anche una delle più convinte, mi hanno ricordato, quindi certo solo gli imbecilli non cambiano opinione. Non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, non mi moleste moschito, why don't you go? Non mi moleste moschito. E allora alle 20:16 riprendiamo con la Zanzara. Vi vogliamo far ascoltare l'intervento ieri sera di Dario Fo, proprio qui, in questa sede, in questa radio. Caro Parenzo, te lo ricordi? Sì. Intervento strepitoso ieri sera, strepitoso. Intervento nel quale ha definito Matteo Renzi un ciancione. Ha usato proprio questa espressione. Cioè, intanto Parenzo sta sedendo, si fa come al solito gli affari suoi, sta andando a cena fuori, venerdì sera, come al solito. Gli affari miei? No, non fare diffamazione aggravata. Non sto facendo. Io guarda adesso ultimamente dirò come l'avvocato di Pancani, che ho incontrato in quel giorno, di Andrea Pancani, vice direttore della SET, che mi ha detto: guarda, nel dubbio, quando cominciai ti fa arrabbiare, tu dici, io nel dubbio querelo. Vabbè, ma che c'entra? Sei in giro? Ma dove sei? Dove ti trovi in questo momento? Dove sei? Nel dubbio, non posso rivelare la posizione geografica. Cioè, noi sappiamo che il senatore Sposetti è a Enna a lavorare, tu dove sei? Sì. Ti basti sapere che io sono a Roma. No, ma dove sei in giro? Dove sei? Sono in giro, sono a Prati in questo momento. Cioè sei in giro? Sei in giro? Sì, in giro, per strada. Certo. Per strada, vabbè. Cioè invece di lavorare in un posto normale, avere un collegamento normale, sei in giro per strada, vabbè, basta sapere. Sono in giro per strada perché sono dotato, perché l'accordo che abbiamo fatto, se no io parlo con i sindacati, inizio su quale, io parlo con i sindacati, faccio 5 minuti, Vai dai sindacati, sai che succede con i sindacati, sai con me che non attacco questo discorso con i sindacati, no? Ma io chiamo, Dario Fo, sentitelo su Ciancione, Renzi un ciancione. Ah, io Bersani ancora, guarda, l'altro, il toscano, non lo sopporto, devo dire la verità, è così pieno di sé, così, come diciamo noi, ciancione, è un personaggio della commedia dell'arte, ciancione, parla con troppa certezza delle cose, non si vede mai il dubbio, non dice mai credo che, spero che, forse che, no, lui dice no, è così, è così, è così, è tagliato verticale. Allora, senatore Sposetti, un'altra cosa che dice Reggi, coordinatore della campagna elettorale, è che Bersani prende i soldi dall'Ilva, da Riva dell'Ilva, e deve rinunciare a quei soldi. Penso che Reggi, visto che Piacenza come Bersani, dovrebbe sapere che cosa ha fatto, come è cresciuto, come ha studiato, come vive, che lussi ha, queste cose mi sembrano, ecco, quelle, qualche colpo sotto la cinta, sto ragazzo mi sembra un po' agitato, però agitato, sì, agitato. Beh, sa, quando uno pensava di diventare il padrone di un pezzo d'Italia, Renzi dice? Perché, quelli che c'ha attorno sarebbero diventati padroni assoluti, prima prima del PD e poi dell'Italia, sì, visto che gli è sfuggita, e quindi pazienza, insomma, se ne faranno una ragione, Cruciani. Dice, eh? Sì. Beh, sì. Ma che su, lui dice che non ci devono essere vendette dopo. Renzi oggi ha detto, basta che dopo se perdono non ci siano vendette. Perché sa che perde, che siccome lui voleva fare sfracelli, rottamare, sì, cacciare... Il padrone d'Italia voleva fare, dai, su. Sì, il padrone d'Italia, sì. Ce ne sono stati, Tipo? Qualcuno ha fatto pure una brutta fine, però pazienza. Berlusconi, Berlusconi, dice lei. No, andiamo avanti. Ah, Mussolini dice. Andiamo avanti. Eh beh, no, adesso andiamo fino in fondo, senatore, non è che può lanciare la palla così e poi... Dice, ce ne sono stati di quelli che si sentivano i padroni d'Italia. Ma beh, sì, queste cose poi dopo finisce pure per loro, perché l'immaginazione, l'illusione... Ma chi si riferisce lei? A Mussolini? Che, cioè, gente che è finita male? La democrazia vive con il consenso e vive con gruppi, sì, larghi di cittadini, di donne e uomini che costruiscono un percorso. E non le con... persone sole non mi piacciono. Tipo? Mussolini, su, quello si riferisce. Vabbè, quello voleva essere Mussolini d'Italia, no, io, per esempio, Berlusconi. Io teorizzo partiti, gruppi dirigenti, regole, sì, statuti, trasparenza, e invece Renzi? Primarie, soldi, come si raccolgono, naturalmente io sono difensore del finanziamento. E come no, è certo. Ma la cosa che vorrei sapere da lei, Parenzo, è curioso, ma secondo lei è giusto o no dare il finanziamento ai gruppi regionali su cui si è molto discusso di recente? A parte come si spendono, naturalmente, quello ovviamente è un altro discorso, ma è giusto dare... Sì, a me o a chi sta parendo? No, a lei. Questo... A me, Sposetti. Beh, certo, è giusto o no dare... È giusto darli, io ho scoperto... Devo dire che quando mi sono fatto spiegare che cosa avveniva nel Lazio o in altre parti, anche la mia fantasia, che pure sì, è attrezzata per questo campo, non c'era arrivata, insomma, sono un po' esagerati. No, sì, ho capito. Prego? No, ma in che cosa sono esagerati? Beh, insomma, così come ci hanno spiegato che avvenivano... Sì. Trasferimento di risorse ai gruppi e come venivano spese, documentate le spese, insomma, quello va bene. Ma è giusto dare i soldi ai gruppi regionali? Perché c'è l'attività politica, bisogna informare gli elettori, i cittadini. L'informazione è fondamentale. Vabbè, ho capito. Il problema è sempre. E come si spendono? Vabbè, come si spendono? Sempre, cioè, le regole, ma soprattutto anche un po' insomma, non facciamo tutte queste kermesse, luci, dicevano cosa, sono tutti volontari, non è vero niente. No. Ma dove, Renzi? Sobrietà, Cruciani. Sobrietà. Ho capito, però. Sobrietà da parte di tutti, però, sobrietà. Da parte di tutti, sobrietà. Senta, sobrietà. Ma invece il finanziere Serra, che oggi ha parlato con Renzi, che ne pensa di questa accoppiata Serra-Renzi? È una bella accoppiata? Una bella coppia. Ma io sono rimasto molto perplesso per come, diciamo, l'informazione italiana non ha seguito un filone di un finanziere che risiede a Londra, alla società nelle Cayman, e dice di pagare le imposte, e nessuno si sia premurato di studiare che cosa avviene quando io, cittadino italiano, ho una società a Londra, nella City, risiedo nella City e ho la società nelle Cayman. E allora? Nessuno di voi è andato, ha cercato di capire come funziona questo meccanismo. No. Non l'ho apprezzato, mi dispiace. Però scusi un attimo, a parte che non è vero, perché sono usciti un sacco di articoli. Senatore Sposetti, ma sono usciti un sacco di articoli su questo. Soprattutto quelli che seguono la finanza, che ci fanno lezioni, che ci dovrebbero dire come avviene, perché. Ma scusi, lei accetterebbe di essere guidato da un capo di un partito? Lo so che per lei è un'ipotesi irrealizzabile. Renzi, che ha come uno dei suoi principali, come dire, spin doctor, uno che sta alle Cayman? Assolutamente no. E che fa? E dunque, se vince Renzi, lei che fa? Faccio una battaglia politica. Intanto adesso lui non vince. Vabbè, questo l'abbiamo detto. Quindi questo non vince. Vince Bersani. Vabbè, spero, d'accordo. Spero il lavoro, perché Bersani vinca al primo turno, e se no si fa battaglia politica. Cioè, uno che ha la società nelle Cayman, no, per cortesia, Esiste tante nella mia vita, questa no. Ma ha detto, che cos'è che ha detto? Ha parlato di banditi recentemente Bersani, eh? Ma no, ha detto, beh, insomma, adesso parliamoci chiari. Sì. L'attacco all'euro e l'attacco al debito pubblico italiano non è partito da un convento di suore. E dunque? Clausura, Lei dice che Renzi si è messo in casa... No, Cruciani, fermiamoci qua. L'attacco all'euro ho capito, però. Va avanti da mesi. Dunque Renzi si è messo in casa... al debito pubblico italiano non è partito da un convento di suore. E dunque Renzi si è messo in casa... È partito da coloro che, finanzieri che hanno le loro società nei paesi, paradisi fiscali. Nelle Cayman. Quindi, dunque, questo, si è messo in casa uno che ha fatto la guerra all'euro, che ha fatto la speculazione sul finanziaria. Diciamo la verità. Che lui no, ma insomma, sono partiti da là. Quindi sono vabbè, ho capito. No? Capito, Parenzo? No, ma questo è interessantissimo. Infatti mi stupisce che Bersani invece non abbia affondato, come giustamente... Beh, il primo giorno ha affondato, dopo no. L'ha affrontato, poi non poteva essere una polemica, perché noi dobbiamo pensare ai lavoratori, dobbiamo pensare a quelli che hanno manifestato, a quelli che sono... Ma lei a questo gli stringerebbe la mano o no? Stipendio, a quelli che sono senza un futuro... Ma stringerebbe la mano, stringerebbe le mani, la mano a Serra? Ma no, la mano si stringe a tutti, perché non capisco. Poi naturalmente gli spiego che non condivido il suo ragionamento. Senta, non il lavoro che fa. In fin dei conti, non è meglio, dopo quello che lei ha detto, non è meglio votare Berlusconi che votare Renzi? No, io voto Bersani. Sì, d'accordo, ma piuttosto... No. Piuttosto. Se lei continua così io risponderò sempre Bersani. Io voto Bersani. No, se ci fosse l'alternativa Berlusconi, guardi, Renzi, non ci sarà. Lei chi vota? Si Berlusconi vota Bersani. È d'accordo. Cruciani e Parenzo a votare per Bersani. Parenzo già lo fa per conto suo. Cruciani io deve no. Scrivere. Adesso dopo gli do le indicazioni, manda un'email e la scriveranno a Firenze. Meglio Serra o gli studenti che protestano in piazza? Beh, io sto dalla parte degli studenti. Dunque le ripeto, preferisce Berlusconi o Renzi se dovesse esserci Bersani. Una... che cavolo Bersani. Si ritira dalla politica o no? Sposetti, alla fine c'è ancora questo dilemma, si ritira o no? A 14 anni lo so, non 15, e vabbè. Dunque? Che fa? Io non mi sono mai ritirato nella vita. Dunque non si ricandida. Faccio sempre la battaglia. La procedura, la domanda è posta male, come quella chi mette chi ha nel panteo. La procedura per le candidature è una procedura. Vabbè, ho capito, però se lei vuole e dice io voglio essere ricandidato, lei che è uno, insomma, che ha una sua storia, in qualche modo sarà ricandidato. È una questione di volontà. Ha fatto 14 anni e non 15, dunque in teoria potrebbe essere. Cioè, non entro in quella categoria che avete fatto prima, avete. Sì, la Bindi, fatto ascoltare la presidente del partito, la Bindi. Bindi. Sì. Io non sto in quella categoria, punto. E poi tu? Il resto è. Però lei ha una voglia matta di restare in Parlamento, lo dica, una voglia matta. No, una voglia matta no. No. I nipoti ce l'ha? No. I nipoti no, però, dunque. Aspetta, insomma. No, ho detto, farò il nonno se mia figlia me lo consentirà. Consentire significa che ci deve essere la materia prima. Sì. C'è la materia prima. Sì, certo. Dunque, no, lei vuole restare in politica, in Parlamento. No, però... in politica è un'altra cosa. Ma anche in Parlamento, lo dica chiaramente. La battaglia politica si fa... Con quei baffi, ci vuole uno da battaglia. Nelle sezioni. Però lei ci vuole uno da battaglia. Ma Sposetti, che gli frega? Lui comunque è presidente della fondazione, gestisce comunque quelle cose lì, ma ha molto più ruolo lì. Ma vuole fare battaglia al Senato, su, ma di che parliamo? Vabbè, comunque, non ce lo dice ancora, vedremo. Comunque, quando visto tutte questi colpi... Accelerazioni, queste accelerazioni, sì, queste accelerazioni. No, questa accelerazione, ma visto che Reggi parla, adopera questi termini che non sì. mi piacciono... Voi, io avevo detto un mese fa, guardate, un mese, 40 giorni fa, avevo detto, guardate che Renzi ha già speso 2.035.000 euro, nessuno di voi è andato a vedere... Quanto ha speso fino adesso? E vi siete accontentati di dire, ma quello che noi raccogliamo sta sul sito. No, io ho chiesto quanto ha speso, è un'altra cosa, perché Cruciani, se lei... Quanto ha speso fino adesso, secondo lei? ...euro al mese, ma ne spende 20... Il problema è quanto ognuno di noi ho capito, ma quanto ha speso fino adesso? Quanto ha speso secondo lei Renzi fino adesso? Non lo dire da lui. No, ma secondo lei quanto ha speso? Per la Leopolda. Quanto ha speso secondo lei? Per la Leopolda? Almeno 350.000 euro. Per la Leopolda. E in tutto fino adesso quanto ha speso? ma più o meno ha superato i 2.800.000. Dunque, secondo lei è ben oltre il limite che è previsto per le primarie? Ah, no, sì, per, poi naturalmente lui fa, per esempio, la Leopolda la terrà fuori e dirà che non sta dentro le primarie. Ah, fa il trucco, dice lei. No, fa il trucco, perché sennò dentro le primarie non ci sarebbe stato. Perché lì, appunto, dico, 250, no? Quant'è? 200. 200. Dunque, ben oltre ormai, sicuramente ben oltre. Abbiamo la Parodi qui da noi? Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo già la Parodi? No, non ce l'abbiamo, ma non c'è problema. Che cazzo di domande fa? Sei ancora a casa? Spina nel fianco, fastidiosa realtà, una macchia nera sul vestito bianco della normalità, perché hai scelto. Nelle vostre città. Ha un Gentilini che ride, ce l'abbiamo? Ma di chi era quest'ultima risata? Gentilini che sarà ricandidato sindaco a Treviso per la Lega, una cosa incredibile, notizia dell'altro giorno, eh? Sì, sì, da tutti. Beh, però il Formigoni che sbrocca è la cosa più bella del mondo di oggi, eh. La cosa più bella del mondo di oggi è Formigoni che sbrocca. Io rimanderò fino all'infinito questa frase su Zambetti. Come si riconosce uno dell'Andrangheta? Poi fai la tua scenetta, Parenzo, perché è fondamentale, sì, certo, questa cosa qui. Io ho provato rabbia perché fra l'altro Zambetti era uno che raccoglieva voti di popolo, io ho partecipato a due suoi comizi, ha riempito in due serate consecutive il Teatro Dal Verme, che qui a Milano ha 1800 persone, quindi ho visto 3600 persone vere che acclamavano Zambetti, che lo votavano. Io quando l'ho saputo era già in carcere. Quelle persone lì? Si capisce, si ha l'occhio, si capisce, si vede che c'erano famiglie, bambini, anziani, eccetera. Ma che all'occhio si capisce cosa, Parenzo? La questione di fondo, lui dice no, ma si capisce, da tutte persone che avevano una faccia di un certo tipo, perché Formigoni vive ancora nell'iconografia per cui il mafioso è basso, grasso, con sopra, con questa coppola in testa che gli si avvicina con tre persone che hanno, nascondono quasi un'arma, e allora lì sì che si vede, gli dicono Formigoni, mi saluti tanto la tua famiglia, ti vogliamo tanto bene, a te e a tutte quante, Formigoni. E tu dici, solo in quel momento uno gli viene il sospetto che siano mafiosi, allora, ma non lui è così. In quel momento dice, ma chi sono questi signori? E siete qui in regione Lombardia, avete fatto un po' di turismo in regione? Non abbiamo fatto ancora nessun turismo, presidente, stia attento, attento, io sono della grande famiglia della regione Lombardia. Forse non ci siamo capiti, presidente. Sì, ma non è così, cioè non è che uno riconosce le persone solo in quel modo, perché ci sono le famiglie, come dice lui. Comunque oggi a un certo punto ha perso la brocca, ha detto alla sua portavoce vai dentro e spacca la faccia alla Parodi oppure sei licenziata. Ma si hanno notizie di questo licenziamento dalla portavoce di Formigoni oppure no? No, io manda un messaggio, su, manda un messaggino. Come è una, la nostra, è una tua amica persona, Gaia, che conosci, dai, su. Gaia Carretta, non ho voluto, ho mandato un messaggino dicendo guarda, ti sono vicino, ti abbraccio forte, fammi sapere quello che di cui, se posso in qualche modo esserti utile. Vabbè. Lei ha detto grazie, sto valutando. Si stava dimettendo, sì, ma non ce ne frega niente alla fine, però si sta dimettendo, sì o no? No, lei dice sto valutando, devo ma che capire, sta valutando, cioè... ma che è napolitano. Adriano da Siracusa, cioè... su, Adriano da Siracusa. Sto valutando. Sto valutando. Dai. Pronto? Adriano, dica. Pronto, buonasera. E allora, volevo intervenire sull'Election Day. Secondo me Alfano non vuole limitare i danni col fatto di accorpare tutte e due le elezioni assieme, o quantomeno non vuole limitare. Scusi, ma lei ha il viva voce? Suo partito. Lei ha il viva voce? No. Con gli auricolari? No, sono col telefonino. Vabbè, col telefonino. Allora? E allora, sto dicendo, non è per il suo partito, in realtà per i partiti. Perché secondo me, dopo questo brillante risultato che ha avuto il Brillo in Sicilia, se poi si ripropone Grillo e le regionali del Lazio e Lombardia. No, non si sente, Adriano, non si sente niente, poi quasi come Parenzo. Raffaele da Brindisi. Raffaele, sì, Gianni, se mi può fargli ascoltare con quella la frasetta che la Fornero ha aperto la trasmissione appena avete cominciato. È quella del, dell'orto famoso della Sì, Fornero, dell'orto, sì. Ecco, io mi domando, si sono cimentate lei e la figlia a coltivare le piante nell'orto. Vabbè, ma non è strano, è normale, uno orto e coltiva le piante. Sì, ma se una si mette un impegno, perché diciamo coltivare le piante è un qualcosa di primordiale che ogni essere umano dovrebbe saper fare. Ecco, non riuscendoci, perché lei nella fine della sua cosa dice, ecco, non riuscendoci, no? Magari si dà un esito negativo a questa sua impresa. No, gli sarebbe stato meglio anche di pensare un paio di volte prima di prendersi quell'impegno di poter di governare tutto il cambiamento, diciamo, che ha fatto tra le pensioni, il lavoro e tutto il resto, e ha sconvolto non solo le piantine. Ma guardi che non è vero, ci sono delle cose positive, delle cose e degli errori. Lei dice che è positivo che ha spostato di anni di andare in pensione. Sì, assolutamente sì. Alzare l'età pensionabile, al di là degli errori commessi, alzare l'età pensionabile era una cosa necessaria nonostante gli errori commessi in sede tecnica. Perché non si va a prendere il vero problema delle cose? Guardi, perché per me bisogna hanno fatto un po' di cresta sulle pensioni dei generali che non hanno fatto un giorno di guerra? Perché non abbassano le pensioni proprio pazzesche dei giudici che vanno in pensione e di tante altre persone? Dove ci sono i soldi realmente che si vanno a perdere? Sì, ma il problema non è quello, bisogna fare anche quello, sicuramente tagliare le pensioni d'oro, le pensioni d'oro, i cumuli delle pensioni, non c'è dubbio. La cosa fondamentale da dire, però, scusi se glielo ripeto, è che l'età pensionabile andava alzata. C'era chi l'aveva fatto prima, chi l'aveva fatto prima e altri governi erano tornati indietro. La ringrazio, ma che gradualità. Intanto Formigoni si è scusato con la Parodi, da quello che sembra. Formigoni sembra si sia scusato con la Parodi. Grazie alla giornata. Fiorenzo dalla provincia di Roma. Salve, salve, buonasera. Dica. No, volevo solo dire. Tra l'altro dice Formigoni che aveva posto delle condizioni, che si parlasse di politica nazionale, altrimenti avrei declinato l'invito. Però ci risulta che non sia così, Ci risulta che non sia così. Cioè c'erano degli accordi, però chi prendeva gli accordi per la Parodi aveva detto: guarda, qualche domanda sulla vicenda Zambetti e sulle inchieste ci può stare, come normale che sia. Ma vi pare normale che uno invita Formigoni e non gli chiede delle inchieste di Zambetti, eccetera? Ma di che parliamo? Cioè, ma su, dai, signor Formigoni, su. Non è che uno può dire no, si parla solo di politica nazionale e non di Lombardia, ma uno non può porre condizioni assurde. Cioè, questo mi fa andare ai matti. Cioè, uno pone la condizione che non si può parlare delle inchieste. Ma dico, ma siamo impazziti o no? Cioè, Formigoni è al centro di svariate inchieste, va benissimo, sarà innocentissimo, ma non può dire vado a fare un'intervista, però pongo la condizione che non se ne parli. È una follia. Cioè, chi accetta è un pazzo. E infatti pare che non sia stato così. Chi c'è? Fiorenzo, sì. Allora? Sì, sì, sempre qua. No, dicevo, sentito quella notizia di quel parlamentare che ha fatto questa stravagante interpellanza sulla vicenda dei blocchi, delle pompe che farebbero artatamente per favorire. È una stronzata. Ma a parte che è una stronzata, è anche una stupidaggine come. Ma non si può fare, in ogni caso, non si può fare interrogazione parlamentare su una cosa del genere. A parte questo, che è vero. Però è anche, c'è anche una ragione, è una ragione di sicurezza, perché se in un'erogazione il precedente cliente non sgancia questo fermaglio, che non lo fa perché non lo sa fare, perché non è il suo mestiere, quello dopo, come prende la pompa in mano, gli comincia a uscire benzina da tutte le parti. Quindi è una ragione di sicurezza per la quale viene inserita questa cosa. Si informi, signor Di Biagio, si informi. Questi deputati, prima di fare queste cose, come sono pagati con tanto di assistenti per informarsi? Basta che fanno a chiedere un benzinaio che lo spiega. Ma avrà litigato con qualche benzinaio, signor Di Biagio? Oppure ce l'ha con l'associazione dei benzinai o con i petrolieri? Non lo so. Sì, cioè, però insomma, un minimo di infoquista c'è una tragedia di ignoranza proprio quando sono. Ma dai, su, ma fare un'interrogazione parlamentare per il blocco del grilletto delle pompe di benzina, ma di che parliamo? Su. Le zanzare di casa. Intanto c'è un Oscar Farinetti, te lo ricordi Oscar Farinetti? Sì, Oscar Farinetti, fondatore di Italy, che è stato nostro ospite, che dice ci sono 4-5 mila funzionari. Mi sta facendo emozionare Farinetti, mi sta facendo gode. Ci sono 4-5 mila funzionari pubblici che impediscono all'Italia di crescere. Alla Leopolda, questo ne sta dicendo di tutti i colori. Non capisco perché dobbiamo dare 5 milioni di euro all'Unità e agli altri giornali contro il finanziamento pubblico. Alla Grillo, alla Grillo. Mi adorano così. Farinetti, Farinetti, Farinetti, Farinetti. Vincenzo da Caltanissetta, buonasera. Vincenzo? A canna. Vincenzo, non si sente, dica, canna, veloce, tutto. Veloce. Eccolo. Guardi, io da 16 anni faccio il presidente di seggio elettorale in Sicilia e sono l'altra parte delle elezioni, quelli che sgobbano. Allora? Allora, secondo quello che diceva il senatore, in Sicilia le elezioni da aprile a ottobre dovrebbero essere interdette per condizioni climatiche. Cioè, per il caldo, dice lei? Esatto. Beh, lei ha ragione, lei ha perfettamente ragione. No, poi voglio dire un'altra cosa. Sì. Loro si preoccupano tanto di accorpare la data. Sì. Ma qualcuno di questi politici ha mai preso in mano una scheda elettorale? Alle provinciali, alle regionali quest'anno era quanto un lenzuolo, non entrava nemmeno sul tavolinetto per votare. Pensate quegli ottantenni di cui il senatore si preoccupa che possono scivolare sul ghiaccio, che devono entrare in cabina con 3 schede enormi. Allora mi pare proprio una bufala. Intanto quel cretino di Palenzo ha ovviamente perso la linea. Ma sì, perché stavo andando al ristorante. Sì, è al solito, insomma. Gliene dica 4 anche lei, Vincenzo, che è un ascoltatore della Zanzara. Gliene dica 4 anche lei. Ma sì, ma è il classico del venerdì. È il classico del venerdì, gira per Roma, nulla facente come al solito, in cerca di formaggi e di aperitivi molto costosi. Alla faccia degli operai, solita roba. Come la signora che solita si preoccupava roba, delle roba. Colazioni nei bar sciccosi di Roma. Sì, no, quello che io dico è questo. Noi italiani stiamo assistendo inermi a loro che si litigano la poltrona e che vogliono restare lì e qualcuno ha sempre una novità o qualcosa da dire. Però, di fatto, nessuno ci dice mai la verità. Cioè, perché nessuno ha mai il coraggio una volta di dire signori, vogliamo fare le elezioni accorpate perché abbiamo paura del flop? No, ma è chiaro che è tutta una questione di tattica politica, no? Devo dire che in questo caso ci si è messo anche il Presidente della Repubblica, era stata decisa una data più o meno dal Ministero degli Interni, dal Governo, insomma, quella dell'inizio di febbraio. Adesso il Quirinale, c'è tutta una trattativa. Ha un'altra paura. Sì, dimmi, qual è la paura? Ma non è che la legge... Sì, ma la legge elettorale... Vedi, anche questa cosa qua, che il Presidente della Repubblica, sulla base di un'assurda cosa che è una cosa della Corte Costituzionale, che non è assolutamente una bocciatura della legge, perché altrimenti sarebbe incostituzionale, dica che bisogna per forza fare la riforma elettorale, è un'altra follia. Ma di che stiamo parlando? No, cioè, no, non aspetta al Presidente della Repubblica... Se tu parlassi un po' di più anche con Pasquale Cascella, vabbè, che è il portavoce... Senti, Parenzo, non voglio parlare di queste cose, su. Andiamo a Domenico da Milano, dai. Domenico da Milano. Ciao, buonasera. Sì. Niente, volevo fare delle osservazioni riguardo ai rimborsi dei politici. Sì. E voglio raccontare un epilogo, tipo quello che mi capita a me. Io comunque vivo a Milano da 10 anni, lavoro per una grande azienda di trasporti pubblici, non faccio il nome per molti motivi, ma non si capisce niente, ti possono anche licenziare per queste cose. Non ho capito niente, scusi Domenico. Allora, lavoro per un'azienda di trasporti pubblici a Milano. Allora? Molto conosciuta, quindi... Niente, io comunque guadagno 1.300 euro al mese. Allora? 1.350. Allora, mi sposto da Milano a Napoli e col treno, quindi costa sui 100 euro il biglietto. Vabbè, e dunque? Allora, dunque, la situazione è questa, che comunque noi votiamo questi signori che comunque sono semplici cittadini come noi. Una volta che vanno in Parlamento, lo so, anche... Sì. Eccetera. No, su questo c'è una cosa importante da dire, Domenico, credo che lei si riferisca a questo. Oggi ho letto da qualche parte che sono state ovviamente i tagli sono molto ridotti per quello che riguarda i costi della politica, tutte le promesse che avevano fatto non sono state mantenute, ma c'è una cosa clamorosa, che sono stati confermati, Parenzo, tutti i rimborsi per gli ex parlamentari. No, ecco, cioè... questo infatti questa è la cosa che urla vergogna. Cioè questa è la cosa per cui poi quel signore dei 5, 4, 3 stelle lì prende una botta di voti, cioè questo è deleterio, ma sono pazzi, sono dei suicidi, si vogliono suicidare, cioè, questo è il punto. Gli ex parlamentari non devono prendere un euro, già prendono il vitalizio, che è una vergogna che andrebbe cancellato, ma in più prendono anche... Vabbè, questo... No, per me andrebbe cancellato anche il vitalizio se uno ha un'altra pensione. Se uno ha un'altra pensione, se uno ha un'altra pensione, altrimenti tu hai fatto per 10 anni il parlamentare, è troppo alto, veniva calcolato in modo vergognoso prima, ma comunque deve essere abbassato, ma è giusto che ci sia. Dopodiché il rimborso per i viaggi, ma dico, ma siamo pazzi, il rimborso per i viaggi degli ex parlamentari. L'altro giorno il signor Bianco, Jerry White, Gerardo Bianco ci è venuto a spiegare che è giusto perché doveva andare a spiegare come funziona il Parlamento in tutta Italia. Ma dai, su, Vincenzo Lamor. Jerry White, Gerardo Bianco ci mette la faccia, cioè quando noi lo attaccavamo lui anche difendeva la politica. No, ma io devo andare in giro a raccontarci, ma nessuno te l'ha chiesto però, caro Bianco, no? Vincenzo da Modena, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, salve. Dica. Senta, due commenti e un consiglio al senatore che era vostro ospite prima. Quale senatore? Quale senatore? Erano due senatori. Il senatore quello che diceva di votare Bersani e non Renzi. Sì, Sposetti, sì. Sposetti. Allora, sì. Il primo, se lui va a dire in giro solo per dar contro a Renzi che un finanziere qualsiasi dell'isola Cayman è capace di affossare l'Italia, no, non ha detto quello, ha detto che l'attacco speculativo nei confronti dell'euro è partito dalle stesse zone in cui opera il signor Serra, questo ha detto. Sì, però l'attacco speculativo all'Italia non ci sarebbe stato se l'Italia non fosse in queste situazioni qui. Ma sì, vabbè, ma adesso è inutile andare a spiegare le cose, che vuol dire? No, perché questo messaggio fa vabbè, capire, allora? Allora voglio dire di stare attento perché il PD, e io non sono un elettore di sinistra, ma comunque il PD... per la troppa sicurezza ha perso le primarie a Genova, ha perso le primarie in Puglia, ha perso le primarie da altre parti, quindi volevo suggerire al senatore di stare un po' più tranquillo che forse magari Renzi prende qualche voto in più perché rappresenta il nuovo. Se siamo in questa condizione qua è per colpa dei politici che come lui è da 15 anni che sono lì e hanno contribuito a questa situazione qui, perché anche se lui non era ministro del tesoro però era in Parlamento e vedeva le cose come andavano, ma non ha mai alzato la manina per dire che le cose andavano in quel modo lì e non ha mai fatto niente, nemmeno lui. Quindi lui, come tutti i vecchi della politica, ha paura di perdere il posticino ed è poi tipico ancora di più della sinistra che quando si vede un attimo attaccata, come in questo caso da un nuovo, lo deve demonizzare, perché allora vogliamo ricordare che Bersani è lì da 20 anni, che Bersani voleva comprare l'Unipol attraverso Biannella, attraverso l'Unipol, che era anche lui invischiato in quelle cose, lo vogliamo ricordare o ce lo va bene, grazie Renato dalla provincia di Sondrio, per chiudere proprio rapidissimamente 10 secondi. 10 secondi per dire che il senatore Mantovani, io abito a Bormio, il senatore Mantovani non ha la più pallida idea di che cosa voglia dire la neve e di che cosa sanno fare le persone che vivono in montagna. Cioè, dunque si può votare tranquillamente alla fine di febbraio? Ma non c'è nessun problema. Ma dov'è grazie il problema? Renato, grazie. Ci sentiamo lunedì 18:30, viviamo e lottiamo insieme a voi. Abbiamo bisogno di 1200 persone per gestire un paese o basterebbero 200 persone? Posso finire? Lei scriva il suo libro, poi se uno lo vuole comprare lo compra, se lei dice lei delle cazzate sul suo libro lo tiriamo sulla testa e non mi rompe i maroni. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma non dite niente, mandate via, non dite niente. Ma non dite niente. Radio 24. La passione si sente.